Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati e bentornati. Luca Tremolà dei microfoni, Cristina Tagliabue, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi puntata tutta al femminile, anzi la prima di una lunga serie. Abbiamo deciso di aprire, di aprire un tavolo, come si dice, di donne che parlano di innovazione, che hanno una visione alternativa, nuova, fresca del futuro. Abbiamo deciso ogni settimana di sederci intorno a questo tavolo e... Ce ne saranno da scoprire di belle, perché in realtà di donne ormai che sono inserite nel mondo del lavoro, che vogliono cambiare anche una piccolissima fetta della loro realtà, ce ne sono tante. Le donne innovatrici non sono soltanto le donne tecnologiche, sono anche le donne che fanno arte, che fanno creatività, che fanno design. Sono donne comunque inserite in un contesto culturale che ormai ha aperto le porte. Anche se poi non sappiamo, no? Se veramente del tutto, se veramente in tutti i luoghi, no? Siamo lì così oppure... No, certo, adesso accenni qualcosa, stai dando qualche sospetto ai nostri ascoltatori, che ci possono chiamare all'824-0024 o scriverci un sms al 349-238-6666. Il tavolo vuole essere il più libero possibile, noi affronteremo ogni settimana un tema. Oggi abbiamo un artista, una manager, una tecnovisionaria, poi abbiamo due storie di un'imprenditrice che due imprenditori in un certo senso che tornano al sud dopo aver girato in Europa, insomma, per cui racconterete storie di donne. Io mi faccio piccolo in quanto sto nel mio cantuccio, insomma, faccio solo il vigile. No, noi ti ringraziamo per anzi darci questa grandissima opportunità, perché poi ecco, di donne che parlano, come tu sai, ce ne sono tante. A noi piace tanto raccontarci, chiacchierare, eccetera, e ci avete lasciato lo spazio e adesso ve lo prendete. Esatto. Allora, innanzitutto una breve presentazione. Abbiamo qui con noi Costanza Algranti, è un artista, e Fausta Pavesio, che è un manager, un vero manager. Consulente, direi, più che manager, nel senso che lavoro più a consiglio dei manager, diciamo, no? Ma lei non sa che noi abbiamo sia per lei che per la nostra artista una scheda, per cui partiamo da Algrandi. Costanza Algranti, livornese ma milanese di adozione, è una delle voci più originali nel campo delle arti applicate. Lavora intorno all'idea del riutilizzo, del riuso, e ridà una vita agli oggetti che tutto il mondo considera desueti, come pezzi di ferro, legno e qualsiasi altro materiale che racconti una storia. Con le cose che noi buttiamo, Costanza crea culture, mobili o elementi decorativi, e i suoi materiali riciclati fanno parte di collezioni private in Italia e all'estero. Invitata da Planeta a unirsi al progetto Viaggio in Sicilia, ha raccolto per le terre e le cantine ferri, legni e vetri e li ha trasformati in mobili e oggetti poi installati all'interno delle case sparse di Noto, una delle aziende dell'azienda vinicola. Costanza racconta di sé: «Sono di Livorno, del 1962, di giugno. Ex maestra di tennis, sono di taglia medio-piccola, come il mio cane. Adesso abito a Milano e nel mio laboratorio certi giorni ci tira un libeccio forte». Tutto giusto? Tutto giustissimo. Ma perché mettersi in questo mestieraccio dell'artista? Cioè, perché non stare al tennis? Assolutamente per casualità, anzi addirittura per necessità. Tanti anni fa ho ristrutturato una casa, era un momento di pochissima disponibilità economica, e quindi mi sono messa agli ordini di un manovale che per l'occasione era diventato architetto, ingegnere, geometra. Io manovalanza bieca. In quella situazione si è rivelato qualcosa che non pensavo ci fosse, quindi sono rimasta folgorata sulla via di Damasco proprio. Quindi ho iniziato a lavorare con le mani. Ho iniziato a cercare per discariche, disfatture, spiagge, materiali che mi consentissero poi di arredare la casa dopo averla ristrutturata. E quindi è cominciato per necessità e per gioco, e poi le cose sono andate avanti, con, devo dire, con una buona stella che ha sempre dato la direzione. Ecco, ma Costanza, i tuoi pezzi sono nelle case, insomma, anche di personaggi abbastanza importanti oggi, sia in Italia sia all'estero. Non hai fatto un percorso tutto diritto, nel senso che non hai fatto la classica accademia delle belle arti, eccetera, eccetera, no? Hai iniziato, cioè io sono veramente curiosa, nel senso che raccogli una vecchia poltrona, raccogli un ferro vecchio, cosa sono, cosa diventano questi oggetti e poi come stanno nelle case delle persone, come ce li infili? Allora, c'è un passaggio precedente, nel senso, io sono autodidatta e sono autodidatta per scelta, perché per me la parte più entusiasmante del lavoro è la costruzione, quindi il fatto di recuperare il materiale, spesso e volentieri destrutturarlo, quindi recuperare proprio le assi di legno per costruire, le lamiere per rivestire. E in quell'operazione lì, nel cercare di capire come fa a stare insieme un tavolo, come fa a stare insieme un armadio, per me c'è il nutrimento del lavoro, totale proprio. Cioè non sei capace di spedire una mail, però alla fine no. Comunque riesci ad arredare un soggiorno. Sicuramente faccio prima arredare un soggiorno che a spedire una mail, ma proprio senza ombra di dubbio. Ma che quelli che non sapevano spedire una mail fuori? Cioè... No, hai ragione, allora, Luca, hai ragione, perdonami, ma ti sicuro ne vale proprio la pena questa volta. No, la cosa adesso mi rivolgo alla regia, la cosa bella è che si parla tutti assieme ed è bello questa cosa qui, però radiofonicamente mi stanno uccidendo. Andiamo avanti. Allora. No, ripartiamo dalla mail per capire anche una cosa, nel senso, però non è vero che insomma ci sono i luoghi comuni orrendi, beh, cioè, ne tirerò fuori solo uno, cioè il concetto sulla tecnologia avversa a un certo modo di pensare al femminile è un luogo comune frustrante, sbagliato. Io posso parlare solo per me, nel senso non ne faccio un discorso di genere. Io so che il mio lavoro, la mia vita, proprio la mia passione è quella di stare in laboratorio e purtroppo ho una difficoltà proprio endemica nei confronti del computer, che mi rendo conto che diventa anche un limite. Però si può essere innovatrici anche se in realtà non si utilizza un computer, no? Si può essere innovatrici, anzi, perché si inventano delle cose. Per esempio, Costanza è andata in Sicilia quest'anno, appunto ha raccolto degli oggetti della Sicilia. Io sono curiosa di sapere, ma cosa hai raccolto in Sicilia, in terra di Sicilia, diciamo? In terra di Sicilia è stato uno splendore la raccolta. E sicuramente Planeta mi ha dato la possibilità di fare il mio lavoro nell'accezione più alta. Quindi di fare un progetto che è iniziato dalla raccolta del materiale, quindi il giro, il tour che abbiamo fatto all'interno delle aziende, scegliendo quel legno lì, quel metallo lì, è stata veramente una preparazione divertentissima, entusiasmante, perché allora non si giocava più solo con la mia memoria, ma si entrava nella memoria dei pianeti. E questo secondo me ha attivato un divertimento anche loro, perché non era materiale scelto indipendentemente da me, a prescindere da loro, era il loro materiale. Poi la cosa straordinaria è stata arrivare a Noto e trovare dove dovevamo costruire l'arredamento di due case e trovare un piazzale con tutte le cose che avevamo scelto, come se fosse una grandissima dispensa di cucina. Lì l'accoglienza com'è stata? È stata straordinaria, nel senso, io vorrei riavvolgere il filo, tornare indietro e ripartire adesso. È stata un'avventura meravigliosa per il sapore, il colore, la vigna, la bellezza, l'eleganza. E la gente? Meravigliosa. Cioè io ho trovato un'accoglienza, cioè di tutto quello che è lo stereotipo della Sicilia, devo dire, nel mio viaggio in Sicilia. Per il cattivo giornalista che cerca sempre qualcosa che non ha funzionato, no, l'episodio, no. Capito? Cioè la discriminazione, qualcuno che ha detto qualcosa di sbagliato sulle donne, no. Vabbè, niente. Ma Costanza di fatto è l'artista e i pianeti sono i mecenati, per cui no, è anche difficile comunque trovarsi una condizione così, però così, se vuoi proprio trovare delle notizie bruttine sulle donne, no, io te le ho raccolte, no? Nel senso che il tasso di disoccupazione femminile nel mezzogiorno è al 14% e sale al 36% nella fascia tra i 15 e i 24 anni, mentre quello di inattività è inchiodato ad un drammatico 63%. Questi sono i dati? I dati Eurostat e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro dello scorso anno, quindi insomma, se l'occupazione femminile in media in Italia è del 46%, a sud comunque siamo al 31%. Ok, allora tiriamo dentro anche Fausta Pavesio e anche per lei sentiamo una breve scheda redatta da Cristina Tagliabue. Nel Nasce nel 1954. Il 28 novembre compirà 55 anni. La chiamano una nativa digitale un po' datata. In realtà nella sua vita ha mollato tutto e ricominciato da zero ben 7 volte, senza grandi paracaduti. Da piccola voleva fare la ginnasta. Per pragmatismo si è ritrovata laureata a Torino in tecnologia dell'informazione. Unica donna in mezzo agli uomini, ha lasciato il primo lavoro in Fiat per non essere additata come la moglie di. Nell'84 e 87 ha dato alla luce 2 bellissime figlie, Carolina e Cecilia. Oggi una è laureata alla MIT di Boston, l'altra ha studiato 4 anni in Politics and Sociology all'Università di Edimburgo. Ha vissuto in South Carolina seguendo il marito. Tornata in Italia, si è occupata di tante start-up. Oggi è vicepresidente di Innovatori, membro del comitato di indirizzo di Women Tech e consigliere di Atema Academy. Allora, io devo ammettere che mi sento sempre un po' in difficoltà quando ho di fronte questi personaggi che sono mamme, figlie intelligentissime, lavoro manageriale, probabilmente riesce a fare, è anche una brava cuoca, scommetto. Assolutamente sì. Anzi, sì, le racconto un piccolo aneddoto. Quando vivevo a Columbia, South Carolina, ero conosciuta come miglior ristorante italiano di Columbia, South Carolina, perché tutti gli italiani stufi di mangiare hamburger e patatine venivano da me per mangiare per me. Tutti gli americani volevano provare il vero italiano, quindi venivano sempre da me. E quindi sì, sono anche una brava cuoca. Ecco, tra l'altro lunedì ci sarà Women Technology. Esatto. Ci può raccontare brevemente che cosa succederà in quel momento? Allora, Women in Technology è una conferenza internazionale, quindi avremo ospiti che vengono da tutto il mondo. E è nata su un'idea di Gianna Martinengo un paio di anni fa, proprio per avvicinare l'idea di donna e l'idea di tecnologia, e quindi per riuscire ad individuare quelle donne che sono considerate tecnovisionarie, nel senso che si inventano il futuro usando la tecnologia, che poi può essere tecnologia informatica o tecnologia di processo o di arrangiamento di pezzi di metallo, come quella di cui parlava precedentemente l'artista. Esatto. E quindi diciamo che sarà appunto una conferenza che si svolgerà durante tutta la giornata al Museo della Scienza e della Tecnica. E che partorirà un vincitore. Partorirà 3 vincitrici, perché ci sono 3 linee diverse. Abbiamo il premio internazionale, il premio italiano e il premio a supporto della formazione, perché poi una delle tematiche fondamentali è che comunque le donne devono essere aiutate. Io mi sono resa conto anche parlando con donne imprenditrici o artiste, l'artista stessa lo diceva, hanno forse da un certo punto di vista quasi un po' di paura ad affrontare la tecnologia, no? Quando poi la tecnologia che ci serve per fare queste cose è veramente banalissima. Quindi se uno ha passione per il proprio lavoro, come l'artista Costanza. Ecco, esattamente, se uno ha passione per il proprio lavoro, sicuramente secondo me sarà in grado poi probabilmente di utilizzare presto anche qualche supporto. Ecco, faccio una domanda da uomo, perché un po' stupida, adesso consentitemelo. No, la domanda è stupida. Ma la tecnologia, cioè, ha senso parlare di tecnovisioni al maschile o al femminile? Diciamo che forse la differenza sta proprio nella capacità delle donne di non essere solo tecnologhe, no? In questo senso qua, nel senso che l'uomo è molto più tecnologico e basta. Noi donne riusciamo ad avere questa visione olistica, trasversale, mi lasci dire, per cui riusciamo ad unire le competenze di tipo tecnologico a competenze di altro genere, e quindi ad avere un rapporto con la tecnologia che poi alla fine è più umano e ecco, più terra terra. Dottoressa Pavesio, lei, quando ieri l'ho chiamata, subito è diventata mia amica su Facebook, e poi stamattina mi ha spedito il LinkedIn. Sì, anzi a questo punto le chiedo di votarmi nel LinkedIn Business Award, per cui mi sono candidata, perché tutto sommato fa parte del mio lavoro come tipo di cosa, ecco. No, vabbè, lo dicevo, questa perché è una malattia comunque che non ha sesso, nel senso che la questione di Facebook è trasversale, però no, allora no. Sì, io credo di sì, nel senso che ormai le giovani generazioni, non conosco un ragazzino o ragazzina che non utilizzi Vi posso Facebook, dare qualche dato che ho raccolto proprio recentemente comunque, numeri, allora Facebook ha raggiunto un paio di settimane fa 300 milioni di utenti nel mondo, no? In Italia sono 60 milioni, mi pare di ricordare, no? Circa il 47% donne. La cosa poi secondo me è veramente divertente è che se andiamo a vedere il breakdown per genere e per fascia di età, da 0 a 18 anni sono più le ragazze che i ragazzi. Io però devo chiedere a Costanza se è su Facebook. Non credo proprio. No, però posso dirti, Luca, che su Facebook c'è una signora che scrive, che si chiama Nuvoletti, ha scritto un libro su Capalbio, una insomma, signora molto famosa, e in realtà lei ha avuto insomma dei grandi periodi di isolamento, ha 70 anni, la settimana scorsa parlava proprio benissimo in realtà di questa esperienza di Facebook, che le ha permesso a livello personale, non aziendale, ma comunque di stare in contatto con un sacco di amici. Invece la dottoressa Pavesio immagino che consigli alle aziende. Sì, diciamo che io lo uso sia per, voglio dire, a fini professionali sia a fini personali, no? E quindi mi considero parte di quella categoria che ormai alcuni analisti americani hanno individuato come l'empowered women, che sono donne che appunto utilizzano le reti sociali a supporto sia del business sia della vita professionale. Noi abbiamo in collegamento Simona da Milano, buongiorno. Buongiorno, che emozione, complimenti Costanza, grazie. Bravissima, mi ha quasi emozionato perché questo percorso si va fatto parallelo al mio, tra l'altro siamo anche coetanee. Sì, ma è un caramba che sorpresa, cioè nel senso che vi conoscete? Li avete messi d'accordo? No, ma è stupefacente perché come a volte si è veramente così affini pur non essendo mai, diciamo, essere venuti in contatto, no? Con questa idea. Ed è il ciclo, soprattutto nella pittura, per me è stato fondamentale, il ritrovare delle cose che altri dimenticavano o non credevano preziosi, e io il colore non mi bastava più e sulla mia tela ho cominciato a costruire tutto un discorso mio personale, artistico, no? Con la materia sono riuscita. Quindi lei è un artista, abbiamo capito. Sì, io dipingo, è nato con la pittura, con la pittura a olio, ma poi mi sono staccata da quello che era tutto il bagaglio accademico e ho cominciato a esprimermi in questo modo, e cioè, la soddisfazione molto difficile. Ma una domanda, lei ce l'ha la mail? No, neanche lei. Ma cosa fanno senza sito internet? Io un po' marziana. No, sulle tecnologie addirittura no, sono proprio negata. Allora no, lasci, io a me veniva da dire lasci l'indirizzo di mail, che l'indirizzo mail che vi mettiamo in contatto, però né l'una né l'altra l'indirizzo mail sono in gravissima difficoltà. E quindi? Lasci il numero di telefono in regia, vi mettiamo sul telefono, siamo d'accordo. Il destino però sicuramente farà il suo corso e ci incontreremo. E poi a tutte e due io farò una consulenza, ecco, per aiutarle a vendere su internet. I loro quadri su Facebook. Assolutamente. È andata, hanno fatto l'impresa. Grazie Simona, grazie. Arrivederci. No, perché tra l'altro la cosa che posso osservare da fuori, che un attimo, perché poi anche tre donne diverse che fanno cose, poi li mettono su un impero, costruiscono immediatamente. Io mi aspetto alla fine della trasmissione, come è nata Microsoft, come è nata una nuova Sky. Altro che cantine invece di voi uomini, no? Che bazzicate in garage per inventarvi chissà che cosa. Dottoressa, si ricordi che tutti i registi tecnici di questa trasmissione sono uomini, in quanto tale possono portiamo spegnere rispetto. Possono spegnere direttamente il microfono. Ecco, no, ma torniamo invece a anche la presenza insomma delle donne nei social network. Voi lo vedete, lei lo vede in particolare come un momento di confronto, un terreno dove possono succedere cose finalmente un po' nuove, oppure si ripetono determinate logiche? No, secondo me possono succedere cose nuove, anzi cercheremo di farle succedere, perché poi come dicevo prima, il mezzo tecnologico, il social network o qualsiasi appunto gadget o mezzo è assolutamente secondario, no? La cosa fondamentale è volere assolutamente fare delle cose, poi farle tramite Facebook o farle in un altro modo, secondo me è relativo, no? Adesso abbiamo questo tipo di supporto che ovviamente facilita moltissimo le relazioni e via dicendo, per cui ci aiuta a fare le cose magari più velocemente in un modo diverso, ma non è detto che voglio dire sia necessario, probabilmente Costanza potrà continuare a vendere le sue cose senza assolutamente bisogno di Facebook. Ecco, noi adesso ci fermiamo un secondo e diamo la linea alla borsa, ma torniamo subito. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, Cristina Tagliabue, continuano a chiacchierare in continuazione anche durante la trasmissione, però va bene così. No, una rettifica doverosa, 12 milioni, sono 12 milioni, abbiamo triplicato, no, abbiamo sestuplicato gli utenti di Facebook in Italia, dunque sono 12 milioni. Comunque la metà. Voglio dire, la metà sono l'importante, indipendentemente dal numero, era che circa la metà sono donne, no? Quello era il tema centrale. Io volevo dare solo il numero perché ero stato alla conferenza stampa dell'apertura dell'ufficio, infatti mi sembrava un po' strano. E anche gli ascoltatori hanno giustamente scritto dicendo sui numeri, certo. No, sui numeri precisini noi. Attenzione. Allora, noi abbiamo in collegamento Francesca Planeta, buongiorno, buonasera. Buonasera, sentiamo anche per lei una breve scheda. È nata a Palermo 38 anni fa e dice che la Sicilia mette in fuga per poi costringerti a tornare. Ma al di là delle scelte di chi parte e chi resta, quest'isola è una causa per la quale vale la pena di combattere. Dopo gli studi a Londra e a Milano, Francesca, a 22 anni, trova lavoro in un'agenzia di pubbliche relazioni. Dura poco, perché subito dopo viene assunta alla Nestlé, dove si occupa di Nesquik e Orzoro. Nel 95 la sua famiglia lavora alla creazione del marchio Planeta, ne studia il marchio e poi, con la prima vendemmia, la folgorazione. Decide di trasferirsi in Sicilia per seguire il marketing della cantina insieme ai cugini Alessio e Santi e al padre Diego. Oggi si occupa di tutto il marketing e la comunicazione di un'azienda che produce vini in 5 diverse aree della Sicilia. L'azienda si estende su 390 ettari tra Sambuca, Menfi, Vittoria, Noto e sull'Etna. Da questi vigneti nascono 12 vini diversi. Allora, ma è un ritorno quindi? Questa è la storia di un ritorno nelle proprie terre? Ma sì, diciamo che devo dire anche grazie al mio padre e forse anche alla mia mamma che è inglese. La prima cosa che hanno fatto quando avevo 18 anni hanno detto vai, gira il mondo e poi decidi quello che vuoi fare, se vuoi tornare o puoi stare in giro. E così ho fatto, perché comunque mi hanno dato questo coraggio di partire, che magari in quell'epoca non era così facile. E ho fatto le mie esperienze, sono andata in giro e poi sono tornata, perché poi la Sicilia è una terra bellissima, la Sicilia è una terra che io amo profondamente e ho trovato sicuramente dei motivi al di là della famiglia, ma chiaramente anche lavorativi per tornare e per iniziare a produrre qualcosa lì che fosse qualcosa di mio, qualcosa della famiglia, ma che fosse qualcosa anche da portare in giro per il mondo, in questo caso il vino ovviamente. Ecco Francesca, tutte cose buone, visto che insomma si è occupata del Nesquik, che insomma io gli era una passione, poi l'Orzoro e adesso di vini fantastici, leggo Nero d'Avola, Moscato, Noto, Frappato, Vittoria, Grecanico, potrei continuare, vini buonissimi e anche olio, tutte cose da mangiare, da bere, insomma, per la vita bella. Vabbè, al di là dell'esperienza della Nestlé, che sicuramente è stata un'esperienza interessante e molto formativa per me, perché lavorare in una grande, una multinazionale sicuramente mi ha dato tantissimo. Però è uno strano il passaggio, cioè la Nestlé, noi ci immaginiamo questa grande multinazionale, il cibo, dell'alimentare, poi da lì alla scelta invece più, a me viene da dire più naturale, nel senso di tornare alla terra, no? Sì, no, ma infatti è proprio quello. Secondo me è stato importante proprio fare un passaggio proprio diverso da quello che era forse la mia natura. Nel senso che io comunque sono sempre cresciuta accanto a mio padre, alla mia famiglia, quindi sempre in campagna, in mezzo alla natura, raccogliendo mandarini, arance, uva e quant'altro ti offre la natura. Questo passaggio forse è stato importante per la mia formazione, ma anche per capire veramente ancora di più i valori che avevo, che quando uno forse è giovane e piccolo magari ce li hai davanti sotto gli occhi e non te ne accorgi neanche. Quindi l'esperienza in una multinazionale poi dal punto di vista formativo, proprio del lavoro, dell'organizzazione del lavoro è importantissima, perché sicuramente sono tornata tra virgolette vincente anche nei confronti della mia famiglia, che comunque avevo fatto un'esperienza mia, che non era solo una cosa portata, cioè non entravo in azienda direttamente dopo la scuola, dopo gli studi, ma potevo portare anche qualche cosa che fosse mio, di un'esperienza diversa, per poi appunto ritorno a capire che veramente alla fine forse la cosa più bella che avevo l'avevo sott'occhio e forse non me ne rendevo conto, e quindi dovevo lavorare per questa. Ecco Luca, tra l'altro Francesca adesso ci sta parlando della Germania, mi viene quasi da dire che Planeta ormai è diventato un marchio internazionale, quasi una multinazionale a sua volta. Ma quindi però questo però è negativo, nel senso che poi alla fine della fiera continua a girare come una trottola. Beh, ma questo secondo... posso intervenire, è secondo me fondamentale, nel senso secondo io lo consiglio a tutti ed è anche stato uno dei motivi per cui sono tornata in Sicilia, cioè tornare in Sicilia, avere la tua base là, la tua terra lì, ma avere sempre un piede fuori casa, perché non si può andare avanti, non si può se non vedi quello che il mondo ti offre, quello è anche un modo per confrontarti. Fausta Pavesio dice di sì, cioè anche lei sente sono molto assolutamente d'accordo che sia vero, nel senso che le radici sono importanti, ma è importante avere visione sul mondo, quindi andare e venire continuamente secondo me è fondamentale. Beh, un po' faticoso anche onestamente, no? Giusto per così. No, ma la cosa che a me che mi colpiva è cioè che di solito il concetto proprio delle radici, no? Poi è strano, nel senso che c'è gente che non ha proprio, non ce le ha, non le concepisce, non le cerca neanche, però di fatto poi sono fondamentali, soprattutto nel momento in cui ci si ragiona in una condizione di lavoro. Tra l'altro Luca, stavo parlando con qualche tempo fa con Alessio Planeta, che è il cugino di Francesca, che è anche un blogger. Tutta la famiglia proprio. Sì, no, beh, io come dire, cioè le famiglie me le coltivo, no? Dall'inizio alla fine, no, però era perché alla fine questo concetto della Sicilia, tutti studiano e alla fine se ne vanno, no? La maggior parte delle persone sono così, anche il marito di mia sorella in realtà si è laureato a Messina e poi adesso lavora a Torino. Invece si sta sviluppando un concetto diverso, cioè il fatto di rimanere, e questa non è l'unica, come dire, esperienza siciliana o comunque del sud, e poi di portare anzi i valori del sud, no? Non solo fuori dal sud, al nord, ma in tutto il mondo in realtà, perché abbiamo dei grandissimi tesori. Tra l'altro abbiamo pochissimo tempo, però abbiamo anche da sentire Deborah Pietrobono, che è in collegamento. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Allora, la sua storia, anche la sua storia in un certo senso è un ritorno, è la storia di una persona che non torna indietro in un certo senso sui suoi passi. Ah no, la mia scelta è sempre stata quella, appena finito gli studi universitari, sono laureata alla Sapienza di Roma in lettere moderne con una specializzazione in discipline teatrali. Ho iniziato subito a lavorare in quella che è l'organizzazione teatrale e quindi non ho cambiato, diciamo, strada. Il mio spostarsi in realtà, a differenza della signora Planeta, è stato più che altro in Italia, in tournée con Ascanio Celestini, con cui ho lavorato 7 anni. Ora sto seguendo un progetto a Scampia e ora parlo in diretta da Cosenza, perché tra un po' avrò un incontro all'università appunto a raccontare come si può organizzare teatro e a parlare un po' di, anche di drammaturgia, perché ho curato un libro per la Minimum Fax, però sempre di teatro, di testi teatrali, quindi un po' il mio vizio è quello, dedicarmi al teatro. Ecco Deborah, mi permetto di fare una domanda anche abbastanza così stupida. Lei ha parlato di una lunga esperienza con Ascanio Celestini, che oggi è un personaggio, come dire, teatrale e anche televisivo abbastanza noto, e poi invece ha abbandonato, no, quest'idea di fare tra virgolette comunque spettacolo all'interno di una compagine che dava notorietà, per un progetto a Scampia, no, fuori da Napoli, nel quartiere comunque più complesso, più difficile, più malfamato forse, no, della campagna. Beh, Napoli è già di per sé una città complessa, il quartiere Scampia porta con sé ormai anche un immaginario abbastanza consumato, perché poi nel quartiere di Scampia ci si lavora, si cammina, si incontrano le persone, poi chiaramente è complesso, perché appunto il progetto Punta Corsara, che era stato ideato, sostenuto dalla Fondazione Campania dei Festi, grazie chiaramente però a dei finanziamenti pubblici del Ministero e della Regione Campania, finanziamenti che in questo periodo di crisi, ne sottolineo la fondamentale, come dire, presenza, e appunto la base, il centro proprio di questo progetto era l'apertura e la ristrutturazione di un auditorium che era stato costruito negli anni '80 dalla Cassa del Mezzogiorno e poi abbandonato a Scampia. A Scampia si è riscoperto così per puro coincidenza o per puro caso, e siamo ancora in attesa dei lavori di ristrutturazione da parte del comune, sembra che ci siamo, e questo progetto chiaramente prevedeva la formazione attraverso delle borse di studio di 20 ragazzi selezionati per portarli a quelli che sono i mestieri fondamentali per pensare alla vita quotidiana di un teatro, quindi con borse di studio per attori, per tecnici e organizzatori, e questo periodo di formazione sta per finire, perché anche per quanto riguarda la mia esperienza, diciamo, il 31 dicembre in qualche modo si chiude e c'è il passaggio proprio di consegna ai ragazzi che abbiamo formato, e credo che la particolarità di questo progetto sia anche proprio questo passaggio, no? di aver creduto in un certo tipo di formazione e ora di lasciare a loro la responsabilità di portare avanti il progetto. Ecco Deborah, leggo da Terra in disordine di Stefano Laffi e Maurizio Braucci: se si guarda la fonte informativa più consultata al mondo, ovvero Wikipedia, Mondragone oggi risulta una località turistica di notevole interesse, un frequentato centro termale di balneare. Troppa grazia, no, Wikipedia, in realtà è tutt'altro, ma insomma tutt'altro. Ci vuoi raccontare, Deborah, come è stato l'approccio iniziale a questo mondo, una persona che comunque veniva dal teatro? Sì, credo che sia stato anche abbastanza tattico, no? Cioè il chiamare un direttore artistico che è Marco Martinelli e me come direttore organizzativa da fuori Napoli, credo che forse, no, quella figura dello straniero forse era fondamentale in un progetto così, in una città complessa anche come Napoli, forse no, quell'atteggiamento del noi non c'eravamo quando le cose erano accadute ci ha lasciato inizialmente una libertà di testa e anche di agire probabilmente fondamentale. L'approccio è stato in realtà sempre con una doppia velocità, non so come dire, per alcune cose, no? Cioè uno stato di attesa, di tempi abbastanza lenti così. E poi succede e poi tutto in un attimo. Esatto, e anche la mia sensazione del tempo si è anche molto modificata in questi tre anni. Pietro Bono, io la ringrazio perché il tempo è scaduto, ringrazio anche Francesca Planeta in collegamento, noi invece ci ritroviamo con gli ospiti in studio tra pochissimo, ora diamo la linea al traffico. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Superato il tetto delle 10.000 apps. Lo ha annunciato ieri sera Apple. I clienti iPhone ed iPod Touch in 77 nazioni possono scegliere all'interno di una gamma di applicazioni suddivise in 20 categorie, fra cui giochi, economia, news, sport, salute, riferimento e viaggi. Gli utenti di App Store hanno scaricato oltre 2 miliardi di applicazioni, continuando a renderlo il negozio di applicazioni più apprezzato al mondo. Rabbids Go Home. Tornano i conigli. Il videogioco che vede come protagonisti dei coniglietti urlanti e fuori controllo torna per Nintendo Wii e DS. Il capolavoro della Ubisoft è oggi nei negozi. La trama? I conigli puntano la luna e per raggiungerla decidono di ammassare tutti gli oggetti del pianeta Terra. L'Unione Europea dice no al taglio semiautomatico dell'accesso alla rete in caso di pirateria. Avverrà solo in caso di effettiva necessità. Lo afferma in una nota la Commissione Europea. Le misure antipirateria potranno essere prese solo nel rispetto del principio di innocenza e del diritto della privacy, dopo un'equa e imparziale procedura. Intel accusata di aver violato l'antitrust. Il procuratore generale di New York, Andrew Cuomo, ha intentato una causa contro il gigante dei microchip, accusandolo di aver minacciato i produttori di computer pagando miliardi di dollari di tangenti per mantenere la sua posizione dominante sul mercato. I microprocessori Intel alimentano oltre l'80% dei PC del pianeta. Allora, io ringrazio Fausta Pavesio e Costanza Alganti, grazie di essere stati con noi. Grazie a voi. Cristina, chi c'è la prossima settimana? Abbiamo la famiglia Nonino, ovvero madre, figlia e forse anche qualcosa da bere. E domani l'uomo a zero emissioni. Arrivederci.